Padre nostro, siamo qui nella nostra povertà davanti a te. Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità. Dacci il tuo perdono che ci risana l'anima con la tua pace. Padre nostro, tu che puoi tutti i nostri debiti, prendili tu. Il ritorno che non c'è, la ferita, il torto che brucia di più. Perdono che ci dai, ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo. Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango d'ogni povertà. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Padre nostro, aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indifferenza, non perché quello che è grave è senza importanza o perché è bene quello che è male, ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro così com'è, nonostante il male che ci ha fatto, come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti. Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango d'ogni povertà. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Padre nostro, donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l'altro e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera. Dacci la grazia di un'amnistia completa nel cuore, di un perdono reciproco universale, perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di ricominciare e un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola. Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono della verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango d'ogni povertà e l'unità. Spirito, scendi col tuo balsamo, tu che lo puoi. Dove il cuore sanguina, quando grida l'anima dentro di noi. Soffia via la cenere, dacci il tuo respiro di misericordia. Santo Spirito, rialzaci e rivestici di novità. Fa di noi il tuo lievito che nel mondo semina fraternità. Scendi fuoco limpido, scendi fiume carico di primavera. Oggi è tempo.